Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Questa sera andiamo a Cannara, un comune della provincia di Perugia che ha appena terminato di riqualificare l'illuminazione pubblica. Ecco, come sapete, i bilanci delle amministrazioni comunali sono fortemente vincolati, e così viene anche da dire vincolati proprio alla scarsità. Quindi si pone regolarmente il problema di come realizzare queste opere senza gravare sui bilanci. Non si può proprio, è vietato. Il caso di Cannara ci interessa proprio per questa ragione, perché è un esempio di come si possa svolgere una riqualificazione dell'illuminazione pubblica di fatto a costo zero, senza incidere sui bilanci del comune. Ne parliamo con l'ingegner Mauro Calzola di Tetra Engineering, che è la società di ingegneria che si è occupata di seguire tutto questo progetto. Buonasera Calzola. Buonasera a lei e la ringrazio di questa telefonata. Innanzitutto devo precisare che non sono ingegnere ma sono perito industriale, per rispetto... Va bene, l'avevamo promossa. Allora, senta, partiamo da questo intervento di riqualificazione. Le chiedo proprio i titoli, come dire, in sostanza che cosa avete fatto, i numeri. Perfetto, noi abbiamo riqualificato tutta la pubblica illuminazione della frazione di Cannara e sono stati sostituiti in totale 783 punti luce, cioè significa adeguati dal punto di vista sicurezza e inquinamento luminoso, e 23 quadri di regolazione in totale. All'interno dei punti luce abbiamo parte a LED, ma la gran parte sono a sodio alta pressione, circa 570. Che sono quelle luci gialle che si vedono, no? Soprattutto negli incroci. Negli incroci sono illuminazioni stradali, 175 aiuti metallici per arredo urbano, quindi nei due centri storici. Questo intervento praticamente ha portato a un risparmio di 175.000 kWh all'anno, sì, equivalente a 32,8 TEP, tonnellate di petrolio equivalenti, all'anno. In percentuale sui consumi iniziali quant'è? Rispetto ai consumi iniziali credo che siamo intorno al 40%, ancora non abbiamo uno storico tale da poterlo quantificare con correttezza, ma siamo intorno al 40%. Cioè di risparmio energetico. D'accordo. Sì. Ecco, uno degli aspetti importanti qui è il caso proprio di spiegarlo, è che queste operazioni non consistono però solo appunto nel cambiare i corpi illuminanti, ma c'è tutto uno studio molto di dettaglio. No, vede, la sua domanda coglie nel segno. Tutto questo non può prescindere da un censimento della pubblica illuminazione. Un censimento puntuale di tutti i punti luce diventa una radiografia dell'impianto, che è quello che permette poi di curare il malato, cioè senza sapere la patologia non si può curare il malato. Diciamo che i comuni in linea di massima non sanno come sta l'impianto di illuminazione. Ma diciamo, la maggior parte dei comuni non sanno quanti punti luce hanno, qual è lo stato generale della pubblica illuminazione, non sanno quanto pagano, e lei considera che sono tanti comuni che hanno dei contatori attivati che stanno lì e che non servono a niente ma che nessuno distacca. Tra l'altro, tra gli interventi che producono il maggior risparmio ci sono questi regolatori di flusso che servono a far che cosa? A ridurre la quantità di energia, quindi di illuminazione, nelle ore di minor traffico e di minor utilizzo. Quindi noi abbiamo regolato che il massimo dell'illuminazione viene dato dalle 17 alle 24 e dalle 6 alle 7 di mattina, naturalmente in orario invernale. Dalle 24 alle 6 c'è una riduzione di circa il 30% del flusso luminoso e il conseguente risparmio di energia. Ecco, questa è una roba assolutamente ovvia ed evidente, ma in realtà la stragrande maggioranza degli impianti di illuminazione pubblica non sono in grado di regolare la luminosità, possono essere solo accesi o spenti. Sì, perché uno, gli impianti se sono vecchi non possono essere regolati. Due, se uno non installa i quadri di regolazione è chiaro che la regolazione non può essere fatta. Certo. Senta, ho sentito che avete utilizzato anche la termografia. La termografia, come dire, è una tecnica che consente di scattare delle immagini o fare delle riprese in cui si vede la temperatura della superficie degli oggetti che si stanno riprendendo. A cosa serve in questo caso questa tecnica? Ma in questo caso specifico l'abbiamo utilizzata soprattutto in fase di censimento per vedere il livello di carico dei quadri elettrici, perché la termografia è chiaro che per capire se i quadri elettrici sono sovraccaricati, quindi si riscaldano di più rispetto al normale. Ah, ho capito, d'accordo. Dunque, abbiamo detto che questa operazione non ha portato aggravi per le casse del comune, e sappiamo che i comuni possono praticamente ormai, per i vincoli che hanno, fare solo operazioni che non apportino, come dire, aggravi alle casse. In questo caso come si è risolto il problema? Molto semplicemente è stato fatto un bando per finanziamento tramite terzi, noi abbiamo curato tutto il censimento, abbiamo seguito insieme all'amministrazione il bando, sì. E il bando a livello europeo ha portato a che una ditta vincesse la gara, quindi il comune ha mantenuto inalterato il suo budget di spesa a livello di bilancio. Sì. Che era quello che usciva per la bolletta elettrica, cioè questo budget erano i soldi che loro spendevano per la bolletta elettrica praticamente e per la manutenzione ordinaria. Continuato a spendere comunque anche senza l'intervento, cioè paradossalmente loro senza variazioni di costi di bilancio hanno un impianto completamente nuovo, infatti. Sicuro, funzionante, funzionale ed efficiente dal punto di vista della luce. Sta a chi ha vinto il bando, a chi ha realizzato un nuovo impianto essere così bravo a fare efficienza energetica da riuscire a ripagare l'investimento in un certo numero di anni. Questo è il concetto, no? Diciamo che questa è la loro bravura, ma se permette con un pizzico di amor proprio anche la nostra, nell'aver fatto in modo che il bando prevedesse proprio dei vincoli specifici per la società che doveva sì garantire il proprio rientro economico, ma soprattutto garantire quegli standard di qualità illuminotecnica e di risparmio previsti dalle normative attuali. Grazie Mauro Calzola. Grazie a lei, arrivederci e un saluto a tutti i radioascoltatori. Bene, questo è tutto, l'appuntamento è per lunedì, per chi avesse perso qualche trasmissione e volesse riascoltarla ricordo a tutti che c'è il podcast dal sito di Radio 24 e poi se volete scriveteci a Mr. Kilowatt, scritto per esteso, @radio24.it. Buona serata, buon fine settimana a tutti.